Le forze armate mi hanno mentito! Tutti mi hanno mentito, perfino le SS! I nostri alti comandi militari sono composti da una cozzaglia di vili, pavidi e infidi vigliacchi! Mein Führer, sono soldati che versano il proprio sangue per lei! Sono soltanto dei codardi, dei traditori, degli incapaci! I nostri generali sono la feccia del popolo tedesco! Sono uomini senza onore! Non hanno fatto che crearmi ostacoli in tutti i modi possibili per impedire le mie mosse! Se soltanto a suo tempo avessi anch'io liquidato i generali e tutti gli ufficiali delle forze armate come Stalin! Non ho mai frequentato le accademie militari, ma sono riuscito da solo! Da solo io sono riuscito a conquistare l'intera Europa! Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Rischi che veramente di dimenticarti in un momento di fatica quanto bene gli vuoi, perché sei soverchiato dallo stress, dalla rabbia e quanto la melancolia, arrivi quasi a dimenticartene. Ero arrabbiato, ma c'è una legge non scritta per cui non puoi essere arrabbiato con un figlio, soprattutto se è neonato. Storie di bambini dittatori e di giocatori di basket in una puntata tutta dedicata al vizio dell'ira. Era la voce del doppiatore italiano di Bruno Ganz, quella che avete sentito in apertura di questa puntata di Linee d'Ombra, è tratta da La Caduta, questo film straordinario che racconta la storia di Adolf Hitler, e questo pezzo è proprio il pezzo in cui, detto male, Hitler sbrocca, o meglio, Bruno Ganz meravigliosamente interpreta appunto la figura di questo terribile dittatore che sostanzialmente è alla fine dei suoi giorni e nel bunker, e gli fanno capire che ormai non c'è più nulla da fare, e lui invece che arrendersi se la prende con tutti quanti. Ovviamente quello che succede delle volte, anche se non siamo dei dittatori, quando siamo sotto pressione abbiamo la sensazione di essere con le spalle al muro. In questa puntata di Linee d'Ombra, che è dedicata all'ira, parliamo in maniera specifica di piccoli e grandi dittatori e capirete il perché. Noi cerchiamo di raccontarvi delle storie tutti i giorni, partendo da una storia vostra, dalla storia di un ascoltatore, prendendo poi altre storie in giro per il web, per i podcast, per i magazine, che non raccontano l'attualità ma ne hanno a che fare in qualche modo con l'attualità. Ne parlerà sicuramente Musumeci più tardi, ne ha parlato il GR poco fa. Quello che succede nel mondo spesso ha a che fare con situazioni dittatoriali, anche se magari non sono riconosciute come tali, però quello che succede nel mondo spesso ha a che fare con persone che prendono decisioni in maniera autonoma, spesso inaspettata e delle volte magari non diciamo per il bene dell'umanità ma per il loro o di una piccola parte. Ecco, noi raccontiamo delle storie che magari non parlano di quello ma in qualche modo ci sono collegate, e oggi vi raccontiamo due storie nella fattispecie: la storia di un giocatore di basket americano di origini afroamericane che alla fine della sua carriera, come molti giocatori fanno, si trova ad andare a giocare in un paese lontano, straniero, dove magari chiudere la carriera e guadagnare un po' di soldi per poi darsi, chissà, magari all'allenamento, magari a tutt'altro, e si trova a giocare nella Libia di Gheddafi, si trova a giocare nella squadra di Gheddafi, cioè il dittatore libico che ha lasciato poi la Libia nella situazione in cui si trova oggi. E giocare a basket in Libia, giocare a basket per Gheddafi, si rivelerà qualcosa di non particolarmente semplice, e lui ce lo racconterà molto bene. Ma la prima storia con cui apriremo sarà la storia di un ascoltatore, come vi dicevo è quello che facciamo tutti i giorni. Se avete voglia di partecipare, se avete voglia di mandarci una storia, noi la accogliamo a braccia aperte, una o due pagine che raccontino una storia che racconti qualcosa di voi, della vostra famiglia, della vostra esperienza, e che abbia a che fare con un vizio capitale. E ha fatto così Simone, ci ha mandato una storia che parla di ira e che parla della propria figlia, che lui stesso definisce una piccola dittatrice. È una storia tenerissima che probabilmente moltissimi genitori, poco fa ne parlavamo proprio con Anita Panizza che è mamma, e si parlava proprio di come ogni tanto coi figli, io non ne ho ma insomma parlo e vedo persone che ne hanno, i figli rischiano di tenerti in pugno in una maniera tale che nemmeno tu ti rendi conto di quanto ti tengono in pugno e quanto, come dice Simone nella sua storia, siano davvero dei piccoli dittatori. Poi la storia di Simone andrà anche oltre e ci racconterà di un momento difficile oltre il quale, come dire, l'amore per un figlio si dimostra in tutta la sua vastità e in tutta la sua purezza. In questa puntata però dedicata all'ira, giusto per raccontarvi che cosa ascolterete, tra pochissimo c'è anche la storia, la seconda puntata della della storia seriale che abbiamo cominciato a raccontarvi ieri, che è una storia di ira forse per eccellenza, perché è la storia di un giovane uomo a cui da bambino, da piccolissimo, viene ucciso il padre. Viene ucciso il padre per mano di un'organizzazione criminale, parliamo dell'Italia degli anni 70, parliamo delle Brigate Rosse, e l'ira che lui cova dentro di sé per anni, solo per un qualche strano caso del destino e per la sua capacità di elaborarla, non sfocerà in qualche cosa di peggio. E parleremo anche dell'ira e della rabbia delle donne in questa puntata e di quanto, anche se non lo si ammette, abbia meno diritto di cittadinanza rispetto a quello degli uomini. Perlomeno viene raccontata come tale. Se una donna si arrabbia, vabbè, ma che ti succede? La cosa migliore che si dice è: cosa c'hai? Il ciclo. La cosa peggiore invece spesso è semplicemente che non è il caso di arrabbiarsi, perché le donne, insomma, è meglio che non siano, sono più carine se non sono arrabbiate. Parleremo anche di quello e del diritto delle donne all'ira, ma come sempre partiamo da una storia. Benvenuti a Linea d'Ombra. Eravamo felici. Ilaria era nata da poco più di un anno e non era stato facile ritrovare un equilibrio, ma ci stavamo riuscendo. Poi un giorno mi chiamò Barbara, mi disse che era di nuovo incinta. Io esultai, lei pianse per un mese. Non si sentiva pronta. Dopo 9 mesi nacque Emma ed eravamo felici. Già dai primi giorni fece capire di avere un carattere a dir poco fumantino, ma eravamo felici. Emma dimostrò tutto il suo essere allo svezzamento. Mangiava solo quello che diceva lei, piangeva e piangeva e piangeva. Tutto doveva girare intorno a lei e la nostra famiglia si chinava continuamente ai suoi desideri. Si camminava chilometri con lei in braccio perché non voleva stare sul passeggino. Ci si accucciava davanti ai suoi desideri fino a farlo proprio fisicamente. Quando iniziò a gattonare, bisognava stare al suo livello, proprio in terra, perché lei doveva averti lì, alla sua portata. Faceva un giro e quando tornava doveva trovarti seduto là, se no piangeva e piangeva. All'inizio il suo carattere difficile l'abbiamo affrontato mia moglie abbastanza in maniera succube. Io ho provato a prenderla di petto, ma ha vinto lei. Vinceva veramente, sai quando ti dicono l'educazione dei bambini o quando ci pensi prima di essere genitore, io cercherò di essere. Niente, con lei tutto era abbastanza vano e la sua testardaggine è sempre riuscita a vincere su tutto e tutte le persone che provavano a scontrarsi. Una volta provai a lasciarla piangere e lei continuò per 2 ore di fila. La prima ad accontentarla era sempre Ilaria, la sorella, mentre noi cercavamo di resistere per mostrare una parvenza di autorità. Eravamo tutti esausti. Io avevo perso quasi 10 kg, dopo un anno arrivai a 12. Ero arrabbiato, ma c'è una legge non scritta per cui non puoi essere arrabbiato con un figlio, soprattutto se ne è nato. Così mi reprimevo, ma la rabbia sotto sotto la sentivo. E più la reprimevo, e più la sentivo. Pensieri striscianti. Perché l'ho fatto? Stai rovinando la mia vita. Una mattina mi chiamò Barbara, agitata e ansimante. Urlava, mi diceva che Emma, che era dalla suocera, non respirava, la stavano portando all'ospedale. Mi precipitai, all'arrivo la trovai in pronto soccorso. Emma era stata stabilizzata e respirava normalmente. Non si spiegavano cosa fosse successo. La ricoverarono e iniziarono gli accertamenti. Did he jump or did he fall as he gazed into the maw of a morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this and jest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long. We'll be right back. Il pomeriggio la portai io a fare le analisi. Dopo una radiografia e una visita al cuore, aspettavamo gli esiti fuori, guardando un grande acquario. I pesci nuotavano a destra e a sinistra. Io mi ero quasi rasserenato. La guardavo tranquillo. Poi, dal niente, lo sguardo si fece vacuo. Allora la chiamai. «Emma! Emma!» Gli occhi ruotarono e diventarono bianchi. Afferrai la bambina con un braccio, la stecca della flebola con l'altro, e urlai «Dottoressa, aiuto, dottoressa!» Mentre mi avvicinavo allo studio, sentii la bambina irrigidirsi. Mollai la flebo per non far cadere Emma. Arrivarono i dottori e me la fecero poggiare sul lettino. Era rigida, con gli occhi bianchi, e iniziarono le convulsioni. Tremava spasmodicamente, un piccolo corpicino che sembrava non poter reggere la violenza di quelle scosse. Poi si fermò e iniziò un respiro rantolante, sembrava stesse soffocando. E io pensai che se ne stava andando. E io di quel momento ricordo terrore puro, non avere proprio il controllo, perché io specifico lì che vedevo i medici, che soprattutto nella ripresa, quella che ho scoperto nella ripresa, erano lì, che naturalmente loro giustamente osservavano la situazione per nell'evolversi, sapendo già che non era in pericolo, però io la vedevo in pericolo, quindi cozzava questa loro tranquillità con il fatto che io la sentissi quasi soffocare. Ricordo quello come un momento di terrore. Vedevo i medici che guardavano e non facevano niente. La osservavano placidi mentre vedevo mia figlia morire. Poi tutto si fermò ed Emma irruppe in un pianto disperato. Mi dissero di prenderla e la portai dalla madre, che aspettava in stanza. Scoprì solo in seguito che dopo un attacco epilettico il respiro rantolante è solo un recupero. Tornato a casa piansi per la tensione accumulata e lì mi resi conto che qualunque cosa potesse fare Emma, io l'avrei amata comunque in maniera viscerale e sconsiderata. Il mio piccolo dittatore in gonnella. Emma non ha più avuto niente in seguito. Ora ha 4 anni e ci comanda tutti a bacchetta e spesso è insopportabile. Ma la sera, prima di dormire, si dimentica di essere antipatica e mi sussurra «Ti voglio bene, papà». E io mi sciolgo, dimenticandomi qualunque altra cosa. Time keeps on coming. I've been all around. I'll keep on running till time catches on. Spesso succede che l'idea per una puntata e per le storie che mettiamo insieme in quella puntata nasca proprio da un pezzo della storia che riceviamo, come vi dicevo, la nostra casella email che è lineedombra@radio24.it, è la casella a cui vi chiedo di continuare, se avete voglia, mandare le vostre storie. E noi abbiamo preso lo spunto proprio da quello che dice Simone in chiusura della sua storia, quando definisce Emma il mio piccolo dittatore in gonnella. Pronto, ciao Simone, buongiorno. Ciao, buongiorno. Come stai? Bene, tiriamo avanti. Ed Emma come sta? Emma sta bene a scuola, a scuola, tra poco andiamo a prenderla, siamo qui con mia moglie, tra poco andiamo a prenderla. Iniziamo il nostro pomeriggio ai suoi ordini, praticamente. È ancora così, quindi lei è ancora abbastanza, diciamo, tiene in mano la famiglia, grosso modo. Si è un po' ammorbidita, devo dire che un pochino l'ho fatto, però ha sempre il suo carattere bello, bello duro. Senti, quanti anni ha adesso? 4 e mezzo. E la prima figlia invece, Ilaria? 6 e mezzo. Senti, ma sono molto diverse tra di loro, o meglio, la domanda è un'altra, voi avete fatto qualcosa di diverso con una rispetto all'altra? Avete avuto un'educazione diversa? Avete avuto un approccio diverso? No. Figli nascono con un printing già loro. No? Quindi è la come dicono molti genitori, è una questione di fortuna, insomma. Sì, assolutamente. No, cioè, nascono già loro così, cioè, ma secondo, io ho questa vaga impressione che già il secondo giorno avesse già quel suo carattere, capito? Non lo so, io questa impressione almeno riguarda la mia esperienza. Senti, quel giorno quindi ha avuto a tutti gli effetti un attacco epilettico? Sì. Però non soffre di epilessia? No, l'epilessia giovanile ho scoperto, già sapevo qualcosa, ma poi ho scoperto ben dopo che sono, può capitare ed è molto meno grave di quanto ci si aspetta. Naturalmente vederlo è terribile, ma alla fine dei conti sono episodi che possono capitare e spariscono. Molti che hanno episodi anche multipli, dopo una bella percentuale, se non sbaglio oltre il 50%, dopo il 18° anno di età guariscono. Ah, ok, quindi è stato un caso. E certo, è straniante quello che racconti, che tu avevi la sensazione che lei stesse di fatto quasi tirando gli ultimi respiri, e i medici invece erano serenissimi, perché quello è il momento in cui ci si riprende. Beh, loro lo conoscevano, io non l'avevo mai visto. ma infatti mi stupisce che appunto che non dicessero nulla. È vero che i medici giustamente devono stare concentrati su quello che stanno facendo e non possono dare retta a tutti i parenti, altrimenti sarebbe, certo, probabilmente non avrebbero tempo per lavorare. Era un caso che, cioè, teoricamente magari in situazioni di pericolo non ci sono i parenti, in quel caso non potevano non esserci, capito? Chiaramente. Loro naturalmente osservavano la situazione, giustamente, poi mi hanno dato tutte le rassicurazioni del caso, però vederlo è stato brutto, poi comunque. Ti è rimasto quel momento, proprio nell'approccio con Emma o anche con Ilaria, insomma, che cosa ti ha lasciato quel momento che ci hai raccontato in maniera molto precisa? No, allora il momento la paura, no, ti dico, io l'avevo abbastanza bene il rapporto con le malattie delle mie figlie in generale, quel momento è stato quasi lo scatto che poi mi ha fatto ripensare a tutta la rabbia precedente, e sì, lì mi ha fatto vivere forse in maniera diversa anche il suo essere così dura di carattere, sì. L'ho accettato di più, diciamo. Nella tragedia tra virgolette, mi ha aiutato a gestire meglio forse il suo carattere, accettare di più anche il suo essere in quel modo. Quello sì. Simone, di che zona della Sardegna sei? Cagliari. Cagliaritano. Hai ripreso i 12 kg che avevi perso? Sì, adesso sì. Simone, ti ringrazio per la storia, saluta tua moglie, salutaci Ilaria e ovviamente anche Emma. Grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. A presto. Ciao, looking for a man, saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann, you got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Barbara Ann. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. You got me rocking and rolling, rocking and reeling, Barbara Ann, ba ba ba ba. E siamo subito sulle spiagge della California o del Poetto di Cagliari, visto che Simone è di Cagliari con i Beach Boys. Ringraziamo il nostro Luca Micheli che fa delle scelte musicali che ogni tanto ci sfuggono, ma sicuramente c'è una qualche verità. Vero Luca? C'è sicuramente una qualche verità nella scelta di Barbara and the Beach Boys. Noi continuiamo a raccontare, prima però ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Ehi, è il momento del Dub Party! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, che fai, non ti scateni? Dobbiamo festeggiare, perché da quest'anno io sono in tutte le auto nuove con il sistema Dub Plus! Figo il Dub Party! E allora, party! Festeggia anche tu il grande cambiamento. Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale in auto e in casa. Scopri la magia del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in digital radio. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24. La passione si sente anche in podcast. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. E continuiamo a raccontare, ma prima di farlo però voglio ringraziare un ascoltatore che al 349-238-6666 ci spiega probabilmente la scelta musicale di Luca Micheli con Barbara and i Beach Boys. Dice: questa era la musica di uno spot dell'acqua minerale con un bambino che nuotava. Ora, è un po', diciamo, ci fai due giri intorno rispetto al concetto di quel brano, però potrebbe essere, perché devo dire che Luca ogni tanto nelle sue ricerche musicali ha dei guizzi come questo, quindi potrebbe essere. Glielo chiederemo e ti faremo sapere. Continuiamo a raccontare, a prescindere dalle scelte di Luca Micheli, continuiamo a raccontare in una puntata dedicata all'ira. L'abbiamo appunto l'abbiamo declinata alle storie di piccoli o grandi dittatori. Abbiamo aperto con la storia di Simone e di sua figlia Emma, che lui stessa, appunto, come vi ho letto poco fa, definiva la mia piccola dittatrice. Ora invece andiamo da un'altra parte, andiamo in un posto che non è molto lontano da qua, è la Libia. Tutti quanti grosso modo sappiamo quello che succede in Libia, lo sappiamo poco, ma devo dire anche grazie moltissimo a quello che ci racconta Radio 24 ne sappiamo un pochettino di più. E tutti sappiamo che fino a qualche anno fa c'era un tizio che si chiama Muammar Gheddafi, che è stato l'uomo che per 42 anni ha governato quel paese. Questa storia che vi stiamo per raccontare è la storia di un giocatore di basket che ha giocato proprio per quel paese, proprio nella squadra di Gheddafi, e inizia così: mi chiamo Alex Owomi, sono un giocatore di basket professionista. Il basket mi ha portato in tanti posti in tutto il mondo, in regioni diverse, insegnandomi molte lezioni fondamentali che mi hanno reso l'uomo che sono oggi. Sono figlio di un nigeriano e di una donna americana. Vivo in America da quando avevo 11 anni. Sono felice di dire che vengo da entrambi questi paesi. Nel dicembre del 2010 ho ottenuto un contratto per giocare a basket a Bengasi, in Libia, in una squadra chiamata Al Nasr Bengasi. La squadra era del famoso dittatore Muammar Gheddafi, che da 42 anni dominava il paese. Guidato dalla passione, accettai il contratto. Ecco, inizia con queste parole l'intervento ad una TED Conference di Alex Owomi, in una puntata in cui si parla di ira e di piccoli e grandi dittatori. La seconda storia è la sua. State con noi. Arrivato a Bengasi, prima mi mostrarono l'appartamento che mi era stato destinato, con due grandi salotti, tre camere da letto, schermi piatti ovunque. E poi venne la volta del primo allenamento con la squadra. Conobbi i miei compagni. Sentivo che c'era un'atmosfera strana. Molti dei giocatori avevano graffi e lividi sulle braccia. Uno aveva un occhio nero che stava cercando di nascondere. Capì presto che quello era stato il prezzo da pagare per una sconfitta. Presto però le cose cambiarono, cominciammo a vincere e personalmente iniziai a ricevere un trattamento molto speciale. Non ho mai dovuto pagare nulla, il cibo nei mercati o nei ristoranti. Tutto, dalle calze a una nuova TV, a un computer portatile, non ho mai dovuto pagare nulla, nemmeno un centesimo. ma è il 17 febbraio del 2011, verso le 9:15 del mattino. Dalla terrazza di casa mia vedo 200, forse 300 manifestanti davanti a una stazione di polizia dall'altra parte della strada. Poi un convoglio militare che si avvicinava sempre più. Quindi, senza preavviso, partirono dei colpi. Per 16 giorni rimasi chiuso nel mio appartamento, con la paura di uscire, paura di rischiare la vita o anche solo di provare a scappare. In quei 16 giorni, è triste da dire, ma persi la fede in Dio, nel genere umano e in me stesso. Non avevo più voglia di vivere. Dopo 16 giorni, insieme a un autista e a un compagno di squadra, decisi di rischiare. Provammo a scappare da Bengasi verso l'Egitto. Il viaggio doveva durare 6 o 7 ore, ne durò 12. Durante questo lungo viaggio su una strada desertica incontrammo diversi posti di blocco nei quali i ribelli ci facevano uscire dalle auto, prendevano i bagagli, li gettavano sulla strada, ci colpivano e ci puntavano in faccia i loro AK-47. Quando arrivammo al cancello del campo dei rifugiati in Egitto, trovammo centinaia di persone in giro per l'area. Alcune di loro dormivano nel cortile della prigione. I cosiddetti rifugiati erano lì da giorni, alcuni da settimane. Iniziai a gridare alle guardie chiedendo di parlare con il consolato per tornare a casa mia in America, ma non servì a nulla. In quel momento non importava chi fosse americano, anzi mi fece finire in una cella sotterranea. Rimasi seduto lì per 2 ore, al buio, in una cella, e piansi per ore, chiedendomi come fosse finito in quel posto, senza finestre, con i topi che mi rosicchiavano le gambe e l'urina sul pavimento. Rimasi seduto, continuai a piangere. Cercai di capire come quel pezzo di pelle sferico, il gioco che amavo e a cui giocavo da quando ero bambino in Nigeria, mi avesse portato in un posto del genere. Dopo 3 giorni mi fecero uscire dalla cella, mi riportarono nel cortile dove c'erano tutti i rifugiati. Dormivamo nel fango, sentendoci male per la pioggia gelida che colpiva il nostro corpo. Quindi decidemmo di scappare, illegalmente, senza sapere cosa sarebbe accaduto. Riuscimmo a fuggire dal campo strisciando. Arrivammo dall'altro lato, vedemmo degli autobus solo per cittadini egiziani. Io salii su un bus e bussai. L'autista aprì. Erano le 4 del mattino, mi guardò in faccia. Erano settimane che non mi lavavo i denti, non mangiavo un pasto decente. I miei occhi erano iniettati di sangue, non ero sbarbato ed ero molto debole. Capii che qualcosa non andava, ma decise di farmi salire sull'autobus. Appena salito lo ringraziai, ma mentre camminavo accadde qualcosa di magico. Mi guardai intorno, vidi 50 uomini con gli occhi puntati su di me. Arrivai in fondo, non c'erano posti a sedere, allora mi sedetti per terra. L'autista in arabo disse all'uomo che mi stava di fianco di dirmi di nascondermi sotto al seggiolino e poi il pullman partì. Tutti gli uomini sul bus continuarono a guardarmi. Non sapevano chi io fossi, a loro non importava che giocassi a basket o meno. Volevano solo sapere per chi stavano rischiando la loro libertà. Raccontai chi ero e da dove venivo. Loro mi guardavano scioccati. Arrivammo a una stazione di servizio sulla strada. Non avevo soldi e quando tutti gli uomini andarono a comprare da mangiare me ne offrirono un po'. Quando risalimmo sull'autobus furono loro a parlarmi. Uno mi chiese: una volta arrivato ad Alessandria d'Egitto, quando te ne andrai, quando rivedrai la tua famiglia? Io risposi nel modo più onesto possibile e dissi: non mi aspetto di rivedere la mia famiglia. Lui allora aggiunse: in questo momento tu sei la persona più importante su questo autobus. Sei la chiave di molte cose che accadono nel mondo. In quel momento non avevo voglia di ascoltarlo, la mia mente era chiusa. Un paio d'ore dopo ci fermammo a un'altra stazione di servizio per la preghiera. Scesi dall'autobus e mentre tutti si avviavano a pregare, lavandosi le mani e i piedi, due uomini si avvicinarono, mi toccarono per un braccio e mi dissero: vieni a pregare con noi. Era una cosa strana perché musulmani e cristiani non possono pregare insieme. Eppure entrai nel tempio della preghiera con loro e l'uomo disse: puoi pregare il tuo Dio qui. In quel viaggio ho ricevuto una lezione di vita. Non si trattava più del basket, non si trattava di soldi, non si trattava di me. Erano due mondi diversi che si univano. Infine risalimmo sull'autobus per arrivare alla nostra destinazione, Alessandria. Tutti gli uomini scesero, mi avvicinai all'autista e lo abbracciai. Mi chiese se stavo bene, risposi di sì. Scesi dal bus e abbracciai tutti gli uomini, uno a uno, che erano lì. Li ringraziai. La cosa strana fu che mentre aspettavo il mio coach lì alla fermata, tutti gli uomini aspettarono con me. Aspettarono che lui arrivasse. Avrebbero potuto andarsene e fare quello che dovevano fare quel giorno, ma volevano sapere che io ero al sicuro. Non volevano che restassi di nuovo da solo. Volevano assicurarsi che sarei andato in un posto che potevo chiamare casa. Bad day, looking for a way home, looking for the great escape. Gets in his car and drives away, far from all the things that we are. Puts on a smile and breathes it in and breathes it out. He says bye, bye, bye to all of us. Always says bye, bye, bye to all of us. La storia che vi abbiamo appena raccontato l'abbiamo sentita ad una TED Conference, quegli incontri, quegli speech che durano più o meno 15-18 minuti in cui delle persone vengono invitate a raccontare qualcosa di importante della loro vita. Lui si chiama Alex Owomi e se volete rintracciarla cercate su TED.com. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. La puntata di oggi è dedicata all'ira e, come sapete se ascoltate questo programma o se lo conoscete, noi raccontiamo delle storie che raccontano appunto i vecchi e i nuovi vizi capitali. E l'ira, come abbiamo avuto modo di dire più volte, è una dei vizi più frequentata dalle storie che ci arrivano, cioè degli aspetti dell'essere umano che evidentemente sono più facili da individuare e da raccontare. Una cosa che però non abbiamo mai fatto è cercare di raccontare come vista diversamente l'ira da un punto di vista femminile e da un punto di vista maschile, o meglio, come viene raccontata l'ira e la rabbia degli uomini e l'ira e la rabbia delle donne. Qualche tempo fa a Barcellona è successa questa cosa qua. La culpa non era mia, di dove stava, di come sia. Insomma, che abbiate capito precisamente quello che dicono queste donne o meno, più o meno l'intenzione è quella di accusare i violentatori, cioè le persone, o i molestatori in genere, che si trovano sul percorso di una donna, sulla vita di una donna. Era quello che avete sentito, era appunto le voci che arrivavano da un flash mob che si è tenuto in Spagna e che era proprio contro la violenza di genere. Si chiamava Un violador en tu camino, e quello che urlano queste donne è proprio: il violentatore, il molestatore sei tu. E questa manifestazione è stata giudicata aggressiva, eccessivamente aggressiva, ed è uscito un articolo molto molto interessante che è stato tradotto in italiano sul sito passionaria.it, che si intitola Il diritto delle donne all'ira, e l'ha tradotto Giusy Palomba, che vive a Barcellona e si occupa di una casa editrice che lavora proprio sul pensiero critico, sui movimenti, e tra questi movimenti ovviamente c'è anche il femminismo. Pronto, ciao Giusy, buongiorno. Ciao, buongiorno. Grazie, grazie per essere qui innanzitutto. La cosa principale è che vorrei chiederti è per quale motivo dall'articolo che tu hai tradotto, o in generale per la tua esperienza legata alla pubblicazione di libri che trattano di movimenti tra cui il femminismo, l'ira, la rabbia nella donna è vista in maniera poco carina, diciamo così. Perché tradizionalmente il pensiero che entra nello spazio politico e che continua e che agisce il cambiamento in genere è quello maschile. E per questo, disturbando un po' lo status quo e l'ordine costituito, diventa qualcosa che non è accettabile. Giusy, che cosa urlavano esattamente queste donne? Allora, faccio solo una precisazione: che il flash mob è stato ripetuto, praticamente replicato in tutto il mondo, e l'origine però è cilena. Okay. Parte da questo collettivo, che in realtà ha un'origine... deriva da un gruppo teatrale, mm-hmm. si chiama La Stesis, e nasce in un periodo in cui le donne, anche in momenti di forti proteste, sono quelle che subiscono di più la violenza. Infatti una parte del flash mob praticamente riporta una parte dell'inno dei Carabineros, che è la polizia cilena, che dice dormi tranquilla, bimba innocente, non preoccuparti del bandolero, e si riferisce esattamente all'inno che effettivamente è l'inno dei Carabineros, mentre sappiamo che durante le detenzioni di donne in Cile si verificano cose indicibili e quindi violenze contro le donne, e questa è una parte della performance. Il resto della performance si dedica a denunciare la violenza fuori dal proprio corpo, denunciando il fatto che non è colpa di come andiamo vestite o di dove andiamo, e che la violenza è qualcosa che non è riferita alla passione sessuale, ecco, ma è un desiderio di dominazione. Questo è un concetto che in realtà è ancora difficile da far passare. Per Giusy, questo appunto è stato... Scusami, sì. finisci pure. Per questo è stato molto dirompente, e per questo ha creato questa sensazione di incomodità spesso da parte degli uomini. Si è verificato quello che spesso si verifica quando le donne provano a prendere parola o prendono parola, e questo hashtag che si vede spesso anche su internet, not all men, no? Non tutti gli uomini. Tutti gli uomini, cioè, certo. Nel momento in cui tu denunci una violenza o tu denunci un sistema di potere maschilista, quello che gli uomini si preoccupano di denunciare è che non sono io non sono un molestatore e io non sono un violentatore, quindi dovresti dire che non tutti gli uomini lo sono. Cioè, nel momento in cui c'è una donna che sta esprimendo sta denunciando una violenza, in teoria dovremmo preoccuparci dei sentimenti di chi non è un molestatore, invece di continuare a denunciare, ecco. Se volete saperne qualcosa di più, andate sulla passionaria.it e leggetevi Il diritto delle donne all'ira, che ha tradotto proprio Giusy Palomba. Giusy, grazie mille per la chiacchierata, in bocca al lupo per tutto, a presto. Grazie, anche a voi. Ciao, ciao. Any siblings? I got a brother, Blake. He's 4 years older than me, and I guess he always will be.

spesso abbiamo provato a declinarla ad un pezzo particolare dell'ira che può essere scatenata, ad esempio, da una vita sotto una dittatura, che sia piccola, che sia appunto una dittatura causata da una figlia neonata che sostanzialmente prende la vita nelle sue mani e te la strizza finché non l'ha spremuta tutta, oppure cosa significhi giocare a basket nella squadra di un dittatore vero come è stato Muammar Gheddafi. E poi abbiamo parlato di donne e abbiamo parlato appunto della storia di Giorgio Bazzega e di Sergio, di suo padre, che è stata una vittima delle Brigate Rosse. Continueremo a raccontarla domani e nei prossimi giorni questa storia. Io vi chiedo invece di continuare a mandare le vostre di storie che raccontino episodi di vita legati ai vizi capitali, ai nuovi e ai vecchi, al nostro indirizzo che è linea@radio24.it. Linea al GR, torniamo domani per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!